questo accesso, si muovi tu. Ma io sto qui alla console, non ci riesco, capito? Sto accesso, suona dopo. Sì, pronto. Che cerca? Sì, noi spacciamo un sacco di cazzate, quindi sei a casa tua, tranquillo. Vieni, sali su, che non c'è problema. Ah, non c'è, te vergogni da diretta. Ho capito. Vabbè, ripassa dopo, che quando esce l'amico mio dal bagno. Capace che... Comunque, benvenuti a tutti a OGM Oltransisti, gastricamente maleducati. Mi devo ancora abituare a questa nuova version di questa nuova veste. Bella, avete visto la veste grafica nuova? Mo, al di là del logo di questa puntata, no? E beh, bello. Andate su Spreaker e vi... Sì, su Sprite. Andate su Spreaker e vi vedete anche tutta la grafica nuova della puntata. Ma con me, Simone Pizzi, che sono sempre io, quello di Runtime. E via dicendo, c'è Walter Sbanu. Oh, Simone, era Just It, perché ordinate le pizze? Dici che era Just It? Spero, perché c'ho fame. Lo so, mo adesso senti un po', ma invece quell'altro che secondo te, no? Mentre che io sistemo una cosa qui, quell'altro, sì. Dove sta quella? Sta in ritardo? Che... Allora, tu lo sai che il terzo deve essere sempre in ritardo perché è una consuetudine di OGM, però in questo caso ti devo dare una piccola sorpresa perché ti ho trovato il supplente. Attenzione, hai trovato il supplente. Abbiamo trovato il supplì. Attenzione, forse abbiamo trovato il supplente. Che mica è detto, cioè, nel senso, qua noi proviamo, ma non rispondono. Non rispondono, oppure rispondono, chi lo sa? Non lo so, però vabbè. Comunque sappiate che l'abbiamo preso dalle graduatorie, quelle proprio del MIUR, quindi insomma è accreditato, è un supplente per OGM certificato. No, noi l'abbiamo preso per levargli il reddito di cittadinanza. Sì, esatto, perché noi gli pagheremo il gettone di 5 euro per questa puntata, esatto, che gli faranno reddito ISEE e quindi non prende il reddito di cittadinanza. Tra l'altro ci sarebbe da parlare, perché il reddito di cittadinanza... Presentalo, però, presentalo. E se prima non arriva... C'è, è qui con noi Simone Gusella! Simone Gusella! Forse. No, mi sembrava che era qui con noi. No, c'è qualche problema. Va bene, adesso... Stiamo lavorando... Questo è il bello della diretta, ragazzi, ma che ne sapete. Comunque, intanto buonasera a tutti quelli che ci hanno già raggiunto in chat. Salutiamo rapidamente Robby Frontali, Pier G, Stefano, che poi ci ascolterà in differita, perché stavolta probabilmente la cacarella la fa da padrona, ma d'altra parte salutiamo anche Davide Gatti. Gli argomenti sono tanti oggi, cioè volendo potremmo fare una puntata di 3 ore per tutto quello che è successo nelle ultime 24, perché ne abbiamo per tutti i gusti, abbiamo politica, abbiamo sport, abbiamo purtroppo tragedia, perché nel frattempo sta squillando la qualunque qui in diretta allo studio Roma 1 di Spreaker, di OGM, no. nonché di Runtime Radio, la radio piena di suonerie. Nel frattempo ci guarda anche Dolores. Salvini, allora spieghiamola. A 8:30 c'è Conte, che secondo me oggi è proprio il giorno giusto per togliersi non un sassolino dalla scarpa, ma proprio i macigni dagli stivali, secondo me. Dice sta picchiando talmente forte che dice il 20 agosto in Parlamento è niente. Io non vedo l'ora poi di rivedermelo. Noi ovviamente siamo qui a fare servizio pubblico su Runtime, ma ci riserviamo di rivedere la puntata e magari di presentarvene qualche spezzone la prossima puntata, perché no? Oh, intanto, mentre qui dalla regia continuano in testa, abbiamo Gusella. Abbiamo Simone Gusella. Ma bella gente. Ma bello di casa. Come stai? Io consiglio, facciamo come fosse, come dire, Radio Comare, non ci sentiamo da una vita. Simone, come stai? Infatti, come stai? Infatti, Simone, come stai? Bene, bene, molto bene, grazie. Intanto devo dire che sono molto coerente, perché essendo il sostituto di Marco Gualdi io arrivo all'ultimo secondo. E questo anche ci fa piacere. Anche dopo l'ultimo secondo, in questo caso. No, beh, sta andando bene, sto lavorando ancora adesso perché sono strapieno di lavoro in sto periodo, ma bene. Senti, sono quelle cose belle da sentire. La prossima volta che veniamo ci paghi te, paghi... Offri la cena, sa, allora per l'occasione salgo anch'io. Ho patatine in busta, va bene. Ma sì, esatto, è un po' di acqua di sala, no? Chi è il sindaco tuo? Tu sei in provincia di Milano, vero? Il mio è Rusnati. Quindi fonte Rusnati, però non ispira molto, non so, dice un bicchiere Lega, di fonte. Lega, immagino. No, dai, cos'è? No, è una zecca rossa. Senti, ma... Citofonano... ho capito, chi è? Se non sei già stitto, non sonà. Vabbè, rispondi però, dai. Stanno... Chi è? Chi è? Che ti dice? Niente, no, no, no, no, no, no. No, no, eh? No, sì. Sì, sì, sì, sì, sei sì, tu. Sì, sì, esatto, hai vinto tu il contest, quindi no. Sali a prendere, a ritirare il premio? No, che ritira? Non c'è il premio. No, beh, gli diamo il voucher, rifacciamo il buono. Voucher. Ha detto che sale dopo. Verso metà della puntata, quando annunceremo il vincitore, appunto, che ci raggiungerà in diretta del contest, la migliore scusa per non ascoltare OGM, vi ricordo che il premio era una cena intima con Marco Gualdi. Che paga, però... Paga il vincitore. Che spieghiamo, esatto. Il segreto di questo contest è che quello che vince offre la cena a Marco Gualdi, che però questa sera è assente proprio perché si è andato a fare la ceretta full body per l'occasione. Ecco, paga la cena perché? Perché bello. Gualdi è poveraccio. Diciamo, no? Beh, povero Gualdi, insomma, sapete, è una vita molto difficile, il mercato immobiliare è quello che è, al di là di quello che ha provato a dire Roberto Carlino per anni, la risalita del mattone non c'è stata. E il povero Gualdi ne sta un pochino, come dire, pagando le conseguenze. L'ultima casa che era riuscito a affittare era Gusella, pensa un po'. Esatto. Ed era la sua poi, eh. Tra l'altro era la sua, sì, tutta una... Non ha dovuto neanche cercare, capito? Miracolo. Esatto. Ma la sta finendo di... Allora, da quando... Tra l'altro io non so se Simone è al corrente delle vicissitudini della casa dopo che lui se n'è andato. Esatto, da quando è che te ne sei andato, Simone? Quanto, saranno passati 3 mesi? Quanto è? No, di più, che scherzi. Quanto tempo è mesi? Era mesi? Aprile. Aprile. Quasi un anno. Fine aprile. Te ne sei andato ad aprile e ancora non ha finito di ristrutturare la casa. Quindi... Pensa come gliel'hai lasciata. No, in realtà sai che dopo la tua partenza lui aveva deciso di cogliere l'occasione per fare una serie di lavoretti, solo che la situazione è un po' scappata di mano, sì. E quindi si è affidato a delle serissime ditte di, come dire, di proverbiali Zozzoni, esatto, e adesso giustamente deve trovare la ditta che sistema... quello che, diciamo, il carico da 11 che ci hanno messo gli zozzoni prima di loro. Però insomma piano piano ce la fa. Oh, allora mettiamo un po' d'ordine, forse. Ragazzi, mettiamo un po' d'ordine perché questa è stata una settimana che, anzi, questo brutta, fine settimana brutta, boom, ragazzi, boom, cose dappertutto, boom, sono successe cose belle, sono successe cose brutte e sono successe cose che sentite il rumore, non so se lo sentite il rumore, non lo sentite, è il rumore del gesto dell'Umbrellas. E quindi, insomma, cerchiamo un attimo di ricapitolare. Questa sera, come abbiamo detto, Marco Gualdi non c'è perché è appunto andato a fare la ceretta. Abbiamo come ospite, no ospite, insomma, abbiamo come amico ritornante, insomma, Simone Gusella, che in questo periodo è molto affaccendato perché, come sapete, ha trovato un lavoro serio in un'azienda seria. Capito, è dovuto emigrare a Milano per trovare un lavoro serio, capito, che vergogna. No, già l'aveva trovato a Milano, ma non era serio manco tanto quello, pure quello. Ah, è vero, anche quello l'avevo rimosso io, è vero, vabbè, dai, insomma. Poi, volendo facciamo... Sì, no, beh, lì potremmo, ma poi tu hai avuto notizie, Simone, di questi geni del marketing e della comunicazione, qualche novità? Il riciclaggio del denaro sporco. No, no, cioè, purtroppo no. Vabbè. Ho chiesto in giro, ma... neanche che ci lavora capisce cosa sta succedendo lì dentro. Comunque, vabbè, non voglio neanche sapere. Ancora in contatto. Non facciamoci domande, che è meglio. Certe volte salviamo le apparenze. No, invece dicevo, poi io ho spiegato a Simone che oggi il suo ruolo è importante perché in una serata un po' drammatica per certi versi, visto che purtroppo ci troviamo a fare il coccodrillo, non abbiamo l'asset, però immaginate questa musichetta triste in sottofondo, perché ieri inaspettatamente avrei dovuto pensarci, ma mentre che tu dici cerco una tragedia assolutamente imponderabile, è venuto a mancare Kobe Bryant, che è stato un grandissimo giocatore di basket NBA, diciamo che dopo Michael Jordan è stato veramente uno dei più grandi, ha vinto con, se non ricordo male, Los Angeles Lakers 5 titoli, purtroppo in un incidente elicotteristico, possiamo dire così, si è schiantato con un elicottero che credo guidasse lui, non ne sono sicuro, però insomma purtroppo su questo elicottero c'era il suo entourage, ma c'era anche la figlia. Ah, e questa è una brutta storia. È una storia brutta, ma tra l'altro, non so voi se lo sapete, però Kobe Bryant è un pochino come... qual è l'attore feticcio di Monterotondo per antonomasia? Henry Cavill, perché tutti diciamo ha vissuto a Monterotondo e noi in qualche modo siamo, come dire, legati, anche se magari non l'abbiamo neanche mai incontrato in vita nostra, però siamo legati al fatto che noi abbiamo dato ospitalità a Henry Cavill quando ancora non faceva l'attore. Salutiamo Rizzard intanto. Intanto salutiamo anche Rizzard che è arrivato. Il problema, ciao, il problema, quello che ci rende ancora più amara la morte di Kobe Bryant è che lui da giovanissimo ha vissuto tanti anni a Rieti, dove diciamo si è formato come sportivo. E infatti non so se ci avete mai fatto caso anche in alcune interviste, Kobe Bryant media, scusa. Dopo, però da ragazzino è stato a Rieti e lui parlava fluentemente l'italiano. E quindi insomma in qualche modo c'era l'italiano con l'affluenza, c'aveva l'influenza italiana, esatto. Guardi, e... fai uno che c'ha l'affluenza. Mannaggia, devo andare a votare però. Insomma, non è che sto tanto bene. Bello. Oh, a proposito di questo, c'ho però tu una sai brutta che affluenza proprio. Una bruttissima affluenza, tipo il 2-3%, giusto? Tu hai messo la voce lista. Più o meno, sì. E comunque devo dirti, tu sei anche qui in veste di consulente particolare per l'argomento, perché visto che tu come Kobe Bryant sei un tantinello, come dire, una lunga leva, perché sei alto il tuo... Quanto facciamo? Uno è... 95 dipende, tutti. Dipende se è pettinato o no. Esatto, diciamo spettinato, esatto. Perché noi ti vogliamo ricordare spettinato. Quanto sei alto? Spettinato secondo me quei 10 centimetri li guadagni ancora, dici? Secondo me sì. E quindi arriviamo al a 2 metri? Non tanto però, 10 comunque, no al momento. Virgì ci dice che era tifoso milanista. Ah, questo non lo sapevo. Come Gusella, quindi vedi chi più autorevoli te. Quindi Simone, parlaci di Kobe Bryant. Kobe Bryant, ma solo perché era un mio carissimo amico, l'avevo conosciuto all'asilo. Asilo. Sì. E lo ospitavo a casa sempre, tutte le sere, e giocavamo a hockey nel garage. Scroccone. Ma no, hockey, okay. Lui giocava a basket. Vabbè, ma lui prima di giocare a basket nessuno lo sa, ma era un campione di hockey. Sì, lui era un grande campione, cioè lui tutte le persone che passava le prendeva in testa. Esatto. Ok, lui si allenava diceva così. Lui giocava hockey. Così, e siamo cresciuti così, poi a un certo punto ha detto "Devo andare". E mi dispiace, devo andare, ha detto, il mio posto è là. Esatto. Ho capito. Un giorno si è svegliato nero, ha scoperto di essere più bravo a pallacanestro che a hockey, allora. Ma si è svegliato nero, cioè, per caso, oppure l'hanno fatto sì, nero, perché quello è importante. No, mi sa che ha cambiato lui. Cioè di suo, ha detto io sono. Quindi praticamente ha detto, sì, cosa faccio a questo punto della mia vita? Devo darmi una svolta. Gioco a basket o faccio film porno? Ma una cosa poi non esclude l'altra, diciamo così. Vabbè, quello va anche nel tempo libero. Metteva, In effetti, qui ragazzi, spettacolo grosso. E vabbè, comunque, stiamo parlando di una persona morta. Questo, vabbè, ma noi siamo dissacranti, irriverenti, okay, anche per sappochisti. Okay. Qual è la novità? Comunque, questo stava in Italia perché non era lui, cioè era il padre che giocava in Italia, no? Quello che ho capito. Da quello che ho capito io, lui mio papà giocava insieme a suo papà. Esatto. Ho capito, esatto. La schedina, il totocalcio, cioè la stessa statura. Poi, sì. Infatti, mi domando, ma tu come sei? Come sei venuto così alto? Non lo so. Chiedi all'idraulico, Simone. Cioè, non fa queste domande così imbarazzanti in televisione. Hai ragione. Sono le torture medievali in cui ti legano braccia e piedi e ti tirano. E però vedi che alla fine funzionato. Ah, vedi. Oppure hanno fatto gatta, in una giornata umida quando ero abbastanza malleabile. Ti hanno rimescolato così il codice genetico, la sequenza di amminoacidi. Un po' di pongo anche un po'. Ah, diciamo. Sì. Sei un po' di gomma. Senti, molto, ma invece domanda tecnica, hai provato a fare, come vabbè, dire, ma sollevamo musichetta triste? Ma sì, perché ma non ti pare che noi siamo tristi? Hai provato a fare lo gnorri, scendere un attimino in Emilia e votare? Magari ci cascavano? No, mi spiace. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ha fatta. Invece io per esempio sarei curioso di chiedere al lobby, il nostro lobby frontale, perché poi non ho mai indagato questa cosa. Ancora, abbiamo detto a metà puntata? Allora a metà puntata, poi facciamo l'annuncio. Sì, bacioni, sì, ciao, bacioni, ciao. Ma poi io ciao voglio sapere, ma tutti sti, cioè, a chi l'ha dato l'indirizzo alla gente qui? Noi non è che siamo come Radio Capital che dice veniteci a trovare. Ma guarda che lui ci ascolta sempre. Sai, una radio privata, dice. Sì, sì, no, lui. Allora, lui è in chat tutte le puntate, però usa uno pseudonimo. Sta a pizza, è Pier G. Non posso dire chi è. Ho promesso che non l'avrei detto. Ah, no, lo sai. Quindi. Certo che lo so. Un boy. Sì, e beh, certo, poi quello poi, come dire, il bipolarismo, ma non politico. Dicevo, Vorrei chiedere al Lobby Frontali, che è l'unico che comunque so essere in quelle zone, se lui ha la residenza, se ha votato. No, no, ancora non ce l'ha la residenza. Ah, non ce l'ha. Rispondo io. Ma no, quindi tu già lo sai. Ma la sta facendo. Ho capito, aspetta un altro po'. No, vabbè. Pure cazzi sua. Ma sto scherzando. Tra l'altro, ragazzi, oggi è fatto bruttissimo. Ecco, puoi rimettere una musica costernata? Un'altra anche volta. Sì, perché cazzarola. Una musica triste, dietro. Sì, no, ma anche una un po' incazzata, se ce l'hai. Vabbè, ma quanti cazzi comunque. Comunque, vabbè, tu parla. Oggi, mentre per lavoro sono andato in centro a Roma, e come faccio in questi casi ho preso la metropolitana. Tornando in metropolitana, di fronte a me siedeva un uomo sulla cinquantina che leggeva molto accorto, secondo me guardava le figure, perché come dicevamo oggi con Lobby dubito che sapesse leggere, però era tutto assorto nel guardare la sua copia di... oddio, ora mi sono scordato come si chiama la potente rivista, il potente almanacco delle destre moderne, il Primato Nazionale. Il Primato Nazionale, ti giuro, io glielo volevo arrotolare e, come dire, e spiegargli un po' l'anatomia rettale, però sì, mi... ma sono un super culo. Un po', sì. Poi con questa foto, la facciata della rivista che io potevo scorgere, diciamo, dal mio lato, c'era questa foto con tutte le bandiere di Casa Pound, una cosa di una tristezza, ragazzi. Ho trovato la musica adatta per questo momento particolare, che adesso vado a suonarti. Questo ci deve aiutare a capire che in giorni come questi, dove c'è stata una grande sfida, dove ci sono stati dei vincitori, sì, ma ci sono soprattutto stati dei vinti, anche dei vinti, bisogna ricordare che fare dei gesti sbeffeggianti in faccia a colui che ha perso non è bello, perché è sempre insieme a questo periodo, tipo il Natale praticamente, dove siamo tutti buoni, no, insomma. E allora andiamo avanti. Bravo, diglielo, no, anche perché dai, Natale se lo siamo levati, come dire, ce lo siamo buttati alle spalle adesso, ma non me ce fa a tornare, perché insomma, però ecco, ad esempio, chiediamo ai nostri amici in chat, anche se insomma la risposta un po' media me la immagino, ma cosa pensate del risultato delle elezioni regionali in Emilia-Romagna? Siete contenti? Siete dispiaciuti? Sì, sì, te lo so già. Siete indifferenti? Ecco, Simone, tu che sei un politologo, perché... Ma aspetta, prima di rispondere a questo... La Lega non è razzista. Ottimisti, onestamente, attualità. Ed eccoci qua, ritorniamo dopo aver messo lo stacco che ci mancava, perché da tantissimo tempo che non lo mettevamo, e ascoltandolo, e poi ti viene in mente perché non lo mettevamo, perché dice sotto sotto, vabbè, guarda, è questo già discreto, ne abbiamo avuti di peggiori, perché è quello che ci ha fatto l'amico Leo Vargion, che salutiamo. Che salutiamo, tanto non ci ascolta, va bene non ascoltarci. Però non ci ha dato la scusa. Comunque, allora, parliamo. Allora, argomento 1, prima così lo chiudiamo. Vai. Simone, queste elezioni, cosa ne pensi? Cosa ti sono venute in mente? Hai avuto delle sensazioni, delle preoccupazioni? E soprattutto, quando hai saputo del risultato, che cosa è scaturito dal tuo corpo? Quello è importante. Quello lo sappiamo, perché è successo poco fa. Esatto, sono scaturite delle cose non molto piacevoli da dire. Sono molto molto contento che abbia vinto quello lì in quella regione, e invece quell'altro in quell'altra regione un po' meno. Oh, chi è? Quindi insomma, dai, un po' di 10 minuti, grazie, ciao. Senti, no, perché per ma esempio si è attaccato al servizio dei citofoni. Citofono, Simone, per se vede che qualcuno su Facebook ha detto qui abita una radio privata o pirata, anche un po' pirata. E quindi praticamente ci vengono pirativa. Però ecco, per esempio, questa cosa delle citofonate, no? Per esempio, se a te ci citofona uno, no? Ma anche per sbaglio, così per far il goliardo, che dice ma qui mi hanno detto che spacciate. Tu che cosa diresti, cosa ne penseresti soprattutto? Insomma, che questa è un po' la cosa... Beh, intanto provo a piazzare un affare, perché magari è interessato, non so. Magari lo chiede perché c'ha l'amico, il cugino... Perché poi bisogna vedere perché te lo chiede. Soprattutto quanto ne chiede poi, perché insomma non è che posso darlo tutto a uno. Esatto, poi dopo l'altro sono scontenti. Cioè, soprattutto chiaro. Poi voglio dire, se magari questo è un po' marocchino, magari un tunisino, non so, qualcosa, diciamo che gli abbono anche qualcosa, no? Perché sai che poi sono loro quelli che mandano avanti il mercato. Esatto, l'economia si ci fa girare. Cioè, poi, ma scusa, tunisino, marocchino non è la stessa roba? Tipo, ma fuma bene, fuma sano, fura solo pakistano, dice lo slogan. Vabbè, questo è addirittura, mo mettiamo tutti insieme, no? Marocchini e tunisini, algerini sono qua, sono la stessa cosa, no? Il pakistano è un'altra roba. Il pakistano è quello che sta, quando vai dal cinese e dici vorrei due ravioli, e quello te guarda. C'è qui un ristorante cinese da noi che c'è il pakistano che mi guarda sempre in modo strano. Io pure tu già te domani che cazzo c'è un pakistano in un ristorante cinese? Tanto vabbè, oramai lo sappiamo, perché i cinesi sono i nuovi imperialisti oggi, no? Quindi cioè, oggi c'hanno, una volta i cinesi erano quelli che facevano i lavori più umili, oggi invece sono quelli che prendono, che contano i soldi, quelli che praticamente fanno i lavori più umili ancora di più, no? E l'ha notato pure mia moglie questa cosa, cioè, sto pakistano che mi guarda un po' strano. Secondo me sotto sotto hai fatto colpo. C'è impulso. Sì. E quindi stavamo dicendo, e quindi tu gli risponderesti così, cioè risponderesti sì. Non gli diresti ovviamente né sì né no, però. Però nel dubbio se c'hai il grano, insomma, dai. Ma guarda, è quello che gli risponderei anch'io, che se mi citofonasse e mi dicesse ma tu spacci, gli direi guarda, se sali con 49 milioni ti faccio l'aggiuntina. Anche perché, anche, insomma, se abita al primo piano, perché non approfittarne? Anche poca strada, no? No, è meglio se abiti al quinto, perché poi dopo lo fai scendere con l'ascensore. Io non userei l'ascensore, lo farei scendere in un modo più veloce. Sì, ma l'ascensore era una metafora della vita. L'ascensore senza i cavi, però. Okay, esatto, esattamente proprio quello. Senti, ma io invece volevo... Senti, vabbè, lo facciamo salire, facciamo cosa... No, dai, allora aspetta un attimo. Dicevo, vogliamo anche... Non so se ci avete fatto caso, no? Oggi, nel giorno post-elettorale, si parla di vittorie, di sconfitte, di... giustamente Lobby Frontale ci dice proprio adesso, ora il PD è oggettivamente il partito di Bibbiano. Volevo dire, però, gli sconfitti... Tra l'altro è bellissimo il fotomontaggio della Meloni. Sì, diciamo, sotto al cartello di Bibbiano col cartello che qualcuno mi viene riprendendo. Però raga, qualcuno andasse a recuperare qua poraccia, perché veramente dai. Bibbiano, poi dove sta la sangroppa, non è che poi purino. No, però volevo dire questo, non fateci caso, diciamo, c'è chi si lecca le ferite per la sconfitta, chi festeggia per la vittoria, chi deve fare una sorta di resa dei conti in casa, perché ovviamente il PD ha da festeggiare, la Lega molto meno, il Movimento 5 Stelle in qualche modo allo sbando, ma ci avete fatto caso di chi è rimasto totalmente in silenzio? Il Papa. No, il Papa ha parlato, ma di altre cose, anche perché oggi è il giorno della memoria. No, uno che non ha proprio aperto bocca, signori miei, è Renzi. Beh. Dal basso del suo 4%. Sì che è vero. Perché stavolta che c'aveva da dire? Cioè, ha fatto veramente... Non ne ha azzeccata una. Da quando ha deciso di mettersi di traverso nel governo e di fondare Italia Viva pensando di portarsi appresso il 15% dei voti, invece si è trovato col 4%. Mettersi di traverso a queste politiche... Che era quello pronosticato poi, tutto. Ma da tutti tranne che da lui, perché lui continua... Lui è il suo stratega. Lui e il suo 4% di elettori continuano a dire che la gente non lo vota solo perché è antipatico. Stratega. Fatto sta che, insomma, deve fare pippa, perché voglio dire, le carte si sono rimescolate in tanti ambiti, in tanti frangenti, ma lui fondamentalmente è fuori da qualunque, come dire, da qualunque cartina geografica della politica in questo momento. Ma secondo me lui ha fatto veramente un po' come Nanni Moretti, cioè mi si nota di più se sto zitto o mi si nota di più se dico qualcosa. No, mi si nota di più se non vado, esatto, o se vado e sto zitto. In questo caso l'ho riadattata alla questione, perché poi in realtà, se tu ci pensi, lui ha detto io sto zitto perché così mi si confondono insieme a quelli che hanno vinto. Capito? Cioè, nel senso, non è che può dire io ho vinto, perché non è che proprio lui sta proprio, però dice io non dico niente, io faccio parte è tutto un pastone, capito, per lui, capito? Quindi è... Io comunque continuo a dire che il destino di Renzi è quello di prendere in mano un certo centrodestra moderato quando Berlusconi deciderà che è finita una volta per tutte. Io lo vedo lì. poi... No, Berlusconi ancora resiste, secondo me, fino a che non gli si rompe l'animatrone, secondo me è un po'... Beh, la Calabria in realtà, lo dicevamo prima facendo questa analisi spicciola, la Calabria... La Calabria esaudita. Poi. La Calabria esaurita è riuscita in qualche modo a prendersi la regione con una tripletta, perché fondamentalmente hanno fatto 11-11-11, 33%, hanno vinto praticamente... con un terzo dei voti del partito di Fratelli d'Italia, un terzo di Forza Italia, un terzo della Lega, ma la candidata comunque era di espressione Forza Italia, tra l'altro è una forzista di vecchia data. Sì, vabbè, c'è la faccia da criminale proprio, cioè una di quelle di... Guarda, ti dico solo che nel suo passato da avvocato ha lavorato tra gli altri nello studio di Cesare Previti, quindi insomma... Vabbè, ci quello possiamo pure sempre... la Raggi ci ha giocato. Cioè, la Raggi faceva le fotocopie, però dai, cioè... ho capito, è uguale, è la stessa cosa. Da sto cazzo dei Previti ci hanno lavorato tutti. Cioè, beh... Vuoi o non vuoi, se vai a lavorare da Previti, prima o poi un posto in politica ti scappa fuori. Ma io invece volevo dire che alla fine, in questa cosa della Calabria Saudita, quello che ha vinto veramente è la Meloni, perché la Meloni che passa da sto 3-4% all'11% è tanta roba per lei, insomma. Ecco, allora volevo sapere, tu Simone che la conosci un po', cioè nel senso hai avuto modo, insomma, di interagire, poi che ci andavi a scuola pure con lei, no, mi pare, giusto? Sì, sì, infatti sì, sì, sì. Lei era... Però lei è romana. Quando giocavamo a hockey io e Kobe Bryant, era il portiere, infatti vedi che faccia che c'è, perché insomma non ci siamo andati molto piano e quindi insomma mi spiace anche un po', dai. Ah, dici in faccia gli sono arrivate le piatte, come si chiamano lì, la palla del hockey? Sbano, il disco? Il disco, il disco. La palla piatta, la palla disca. Piattello. Senti, la terra piatta. Anche. Regia, sei in grado, esatto, di aprirmi il canale della musica, che così mettiamo una base che secondo me ci sta bene in questo momento, facciamo, animiamo anche un pochino la serata? Cioè? Aprimi il canale. Ah, tu, il tuo canale? Sì. Apri tutto. Vedi un po' se l'ho aperto. Vedi. Non sei aperto? Sembrerebbe di no. Eccolo, vai! Sono la madre, sono Cristiana. Vabbè, però Simone non la sente. È il gioco del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Con le mani, ragazzi. Sulle mani! Genitore 1, genitore 2. Genitore 1, genitore 2. 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. Genitore 1, genitore 2. Con le chiappe, uno, io so delle chiappe. 1, 1, 2. Simone, due, tu stai sodando le chiappe? 1, 2. Mazza, sto rompendo sono le matite con le chiappe. E poi se ci pensate sembra che bestemmia a un certo punto. Comunque, vabbè, ma insomma, dai, su, facciamo un bisboccia. Lasciala che ci piace. Ah, va bene, allora continuiamo, ce la godiamo come così, BGM. Sì. Perché in fondo, secondo me la Meloni, il grande successo politico della Meloni non è per una questione politica, che ovviamente è totalmente inconsistente, è perché secondo me alla fine la gente fa tenerezza, alla fine un po'. Gli fa talmente ride la Meloni che dice ma sai che te dico, ma sì, ma dai. Ma ti ricordi quando c'era, non mi ricordo se c'era l'Ulivo in quegli anni, ok, fatto sta, ci fu il grande successo politico del centrosinistra, che secondo me fu causato da, o meglio scusatemi, il grande successo politico del centrodestra, che fu causato dal fatto che in un momento in cui politicamente l'Ulivo non era molto carismatico, si nacque questo programma del gruppo di Serena Dandini, che era l'ottavo nano, che prendeva in giro in maniera così bestiale il centrodestra. All'epoca c'era Neri Marco Re che faceva Bossi con la maschera di Hannibal Lecter, Casa delle Libertà facciamo un po' come cazzo ci pare, tutti quegli slogan che secondo me alla fine li hanno umanizzati, resi simpatici, e la gente ha votato loro. Non so se te lo ricordi, parliamo più o meno del 99-2000. Sì. E qui in qualche modo secondo me, quando nascono questi tormentoni del web, alla fine, anche se nascono come sfottò, e poi finiscono per avere un pochino un effetto controproducente, perché rendono simpatici personaggi che poi, se vai a vedere sotto sotto, con tutto il rispetto, proprio simpaticissimi non sono. Bene, bene, bene. Però io lo so, per esempio, in Calabria, qual è stata l'affluenza? Sbaglio. Guarda, non è stata molto alta, ma in Calabria... cioè, tra l'altro l'esito del voto in Calabria era scontato, lo dicevano amici calabresi, lo dicevano da mesi con una certa rassegnazione, sì, perché sì, fondamentalmente vabbè, sono andati a votare solo ed esclusivamente i sostenitori del centrodestra. Allora noi diciamo da un sacco di tempo, poi andiamo anche, parla un po' anche de cazzate, perché sarebbe ora, insomma, anche divertente, E lo diciamo da tempo che quello che è mancato a questo paese durante questi ultimi anni, è stato l'affluenza alle urne. L'affluenza alle urne. Ricordiamoci, cioè, che negli anni 80-90 in Italia andavano a votare dal 70-80% degli italiani, e ci sono stati anche picchi molto più alti. C'era una partecipazione alla politica completamente diversa, ma era diverso tutto, era diversa la politica. Il ritorno, diciamo così, al voto, perché insomma noi prendiamo una regione come l'Emilia Romagna, che dal 37% è di affluenza delle ultime elezioni al 67%. Scusa, intanto Rizzard ci indica appunto affluenza intorno al 30% in Calabria, pensate, quindi decisamente bassa. Cioè, allora, quello che è stato fatto è stato riportare la gente a votare, perché io penso che quando tu vedi, ecco, la citofonata, qui sei tunisino quindi spacci, oppure qui ci abita un ebreo, o tutte queste cose che oramai stanno diventando, insomma, come posso dire, quasi una consuetudine, quasi normali, quasi accettabili culturalmente. C'è stato un momento in cui noi dicevamo, se comunque c'è quella parte d'Italia, che io sono abbastanza convinto che comunque non può tollerare una cosa del genere, a prescindere dall'idea politica, no? Certo, perché uno perché può essere liberale, può essere delle cose sono assurde a prescindere, okay, da quello, esatto, che voti. E quindi, secondo me, in questo bisogna dar merito, e questo lo stanno facendo anche le forze politiche, alle sardine, che esatto, da Reggio Emilia, dall'Emilia Romagna a Roma, forse poco giù ci sono andati più di tanto. Anche a Napoli, hanno riempito anche Napoli. Ok, no, però dico, cioè, per esempio, in Calabria non ci sono andati, mi sa, perché... Credo di no. Non c'è stata questa partecipazione, diciamo così, però ecco, laddove c'è stata partecipazione, secondo me la situazione ha ripreso un equilibrio. Perché è chiaro che se vanno a votare solo il 30% di zoticoni, fondamentalmente, la situazione... può essere soltanto questa, insomma. Ma il problema nasce poi anche da una mancanza di, come dire, personaggi rappresentativi nella controparte, perché quello che dicevamo poi noi oggi, no? Il problema è che una grande parte, diciamo il centro-sinistra dell'elettorato, ha ragione quando si lamenta del fatto che non si sente sufficientemente bene rappresentato da nessuno, perché per quanto personaggi come Zingaretti o altri possano avere, diciamo, una capacità politica tutto sommato significativa, non sono personaggi carismatici, non sono personaggi che attirano voti e non sono personaggi, lo dimostrano ogni santo giorno, che sappiano comunicare. Perché la grande differenza tra la famosa bestia di Morisi, che è quest'organo che sostanzialmente, come dire, imperversa sui social, e diciamo tutto quella che è la comunicazione del centrosinistra, è il fatto che il centrosinistra, oltre al grave problema atavico dell'essere autoreferenziale, non comunica con le piazze, non comunica con la gente, non comunica con gli elettori, non va più a respirare gli istinti. La gianta, bravo, mi raccomando, questa è una cosa, la gianta è importante, giusto? Sì, la gianta, certo, perché cioè, mi è venuta la botta, capito, un po' di Roma Nord. Un po' di Roma mista, insomma. Sì, un po' di Roma Sud, un po' di Roma Nord. Vabbè, un po' leggi la nota che ti ho scritto. Sì, sì, ci sto provvedendo. Okay, perfetto, perché a questo punto io direi che... allora, è un momento importante, lo lasciamo un attimo, vediamo quello che succederà. Io spero che alcune forze, che sono quelle che devono raccogliere questo messaggio, si organizzino per costruire veramente un progetto politico concreto. Detto questo, io invece oggi, e qui poi chiamo anche in causa Simone, perché qui veramente è una questione generazionale, no? Con Simone noi facciamo sempre un po' sto gioco, no? Il fatto che tra me e Simone sono un paio di generazioni, no? Ma giusto un paio. Giusto un paio. E quindi alla fine ci sono delle cose, per esempio... io ti posso dire, Simone, qual è stata la mia prima fidanzata, e più che fa, cioè, nel senso, più che dirtelo, te lo vorrei far sentire, perché è una cosa abbastanza importante questa, perché questa è stata la mia prima fidanzata. Sarà un amore strano questo qua, fuori, dentro, qua e là, oh, oh, oh. Uno sguardo solo. Io so che tanti stanno dicendo sì, Simone, ti devo fare una domanda. Esattamente in che anno è che stava con te? Perché pure con te stava. Sì. Ma secondo me è stata, cioè, è stata la fidanzata dei tanti della mia generazione. Poi guarda, io per affetto la chiamavo Federica, però poi quello è un altro discorso. No. Ah, Federica. Ah, ho capito. Non so, Simone, tu la conosci? Certo. Non posso pretendere che sia stata la tua fidanzata. A cricket quando eravamo bambini. E beh, fisicaccio sportivo ce l'aveva. Porca miseria. Minchi, sì, sì. Di brutto. Di brutto proprio. Vabbè, ma vogliamo svelare perché stiamo parlando di Lamù questa sera? Ah, allora, stiamo parlando di Lamù di questa sera perché, come dicevo anche a Sbano fuori onda, noi, voi sapete, tantissime volte abbiamo parlato durante questi 7-8 anni. Perché mi levi la canzoncina? Perché sfumata di suo, Pizzi, l'asset era quello che era, insomma. No, mi devi andare in loop, mi devi andare in loop, devi trovare un modo. Ma le cose belle finiscono. Esatto, YouTube deve mettere uno la funzione loop-me. Esatto, loop-me. E praticamente, che stavo dicendo? Non mi ricordo. Ah sì, che negli anni, durante questi 7-8 anni di podcasting, abbiamo parlato tantissime volte della sigla di Lamù. Sapete che per tantissimi anni addirittura non è stata mai registrata alla SIA, e poi dopo fu registrata da una persona che noi conosciamo, tra l'altro, per renderla ancora disponibile, perché sarebbe potuto capitare che arrivava Tizio e Caio che in qualche maniera se la registrava lui e magari per lucrarci sopra non la rendeva più disponibile, oppure la levava dal pubblico dominio quanto è oggi, perché oggi questa canzone comunque è liberamente, come posso dire, suonabile dappertutto senza dover pagare diritti e cazzi e mazzi. Detto questo, però, tutti si sono sempre domandati: ma questa sigla, Sbano, chi l'ha cantata? Chi l'ha cantata? E soprattutto perché? Ma no, perché vabbè, dai, è pure carina. No, no, a me piace tantissimo, soprattutto perché era così, tanto per metterci la caciara, no? Fatto sta che per quasi 40 anni, diciamo, credo, leggevo e dicevano all'incirca 37 anni, sembra che oggi i ragazzi di un gruppo Facebook nato appositamente, che era il mistero della sigla di Lamù, pare siano usciti a trovare testimonianza concreta dell'autore originale della canzone, che è stato contattato su Facebook sostanzialmente, e c'è sul sito Every Eye un articolo che ne parla oggi. Praticamente ci sarebbe questo interprete, questo autore di questa sigla, che si chiama Noam Kaniel. Lo so, è un nome, non è italiano chiaramente, artista presumo di origini americane, qui non si scende nei dettagli, che avrebbe confermato di aver registrato assieme ad un altro vocalist, di cui però non c'è indicazione, questa canzone a Los Angeles, quindi nei primi anni 80. Contattato, e ci sono le screenshot delle chat, dai ragazzi di questo gruppo Facebook, avrebbe detto, ovviamente rispondendo in inglese alla domanda di Franco, che era questo ragazzo che lo ha contattato via SMS, credo, o comunque via messaggi, e dice, sempre traducendo al volo dall'inglese, dice: ciao Franco, ti ringrazio per il tuo gentile messaggio, ricordo di aver cantato questa canzone e riconosco chiaramente la mia voce nella registrazione che mi hai fatto sentire, però onestamente, dice, non mi ricordo più di questo, mi ricordo che probabilmente è stato un duetto, sfortunatamente non ho ricordi, potrebbe essere una cazzata sta cosa, no, dice sì, per carità, prendiamola con le pinze, dice, non ho altri ricordi al momento, cioè, però pagate... ti prometto che mi pare di averla registrata a Los Angeles, però ti prometto che qualora mi dovesse venire in mente qualche altro ricordo, ti contatterò nuovamente. Ma ti assicuro che questo c'ha tutto tranne che l'agente americano, cioè pure l'abbiamo sentito. Ma lo sai che dopo che mi è stata messa la pulce nell'orecchio, se la rimettiamo, l'ascoltiamo un pochino, il dubbio mi è secondo venuto. Secondo me Rosella l'ha cantata. Sì, sì, sì, godiamocela. Scusate, adesso, ma solo per anche voi appizzate la orecchia. Devo dire, a me non mi sembra proprio, però dai, onestamente. Solamente, e la fiamma è accesa già. Scappo, resto, fuggo, torno, chi lo sa. Com'è difficile stare, cioè è un po' strano, nel senso. C'ha quel retrogusto di Douglas Meakin. No, allora, non lo so. Io l'americano non ce lo sento, perché io mi ricordo, cioè, tutti quelli americani che abbiamo sentito cantare in italiano, cioè, si sente proprio la T, la C, cioè si sente proprio una marcatura forte. Qui io questo non lo sento. Si sente, diciamo che nelle vocali si sente una chiusura un po' strana, cioè nel senso potrebbe essere pure un arabo per quanto mi riguarda. Guarda, aspetta un attimo. Cioè, nel senso. Nel mio Nel mio destino. Qualco... Guarda, potrebbe essere una cazzata, non dico di no. Lo so, però, però adesso l'orecchio mi cicade. Poi... tu lo sai e quindi il tuo cervello lo cerca. È un po' come caro amico mio, culottone, aspettami. Esatto, bravo, esatto. Si chiama paridolia. Parestesia, no, quella è un'altra cosa. No, non... Lobby, tu che hai studiato, come si dice l'illusione acustica? Come viene definita? Paridolia, paridolia. Comunque, pare, ma non è. Simone, tu l'hai mai vista la Mo? Così, giusto per. Sì, l'ho vista l'altro ieri e sta bene, vi saluta. Senti, ma si è mantenuta bene, perché sai, c'aveva quella tettina che non era grossa, bene. Però era impertinente, secondo me... Non era manco picco, cioè, nel senso, però stava, Ma le corna c'ha ancora, poraccia. Quello dipende da Taru, sai com'è fatto. Non si vedono, perché sono cresciuti. Le ha nascoste in un posto molto segreto. Senti, ma di che colore ce l'hai i capelli? Scusate, non sono stato a guardare molti capelli, sinceramente. C'era altro che ha catturato la mia attenzione. Adesso qui andiamo di musica in musica. Questo sì, è casaccio. E vabbè, quindi non l'hai mai vista. Vabbè. Peccato perché, sì, esatto. Sì, no, rimetti. Che... Aspettate, aspettate, c'è il pezzo qua che... Vabbè, voi sapete lo vogliamo dire cosa dice in realtà? Allora, voi lo sapete che ci hanno fatto un video pure quelli del CICAP su questa cosa? Beh, ti credo. Perché insomma, diciamo, alla fine era tipo, insomma, andava in giro che questa canzone diceva caro amico mio culattone aspettami, una cosa del genere, no? Sì, quello che viene percepito, soprattutto se io te lo dico, da quel momento tu sentirai sempre caro amico mio culattone aspettami. In realtà la strofa originale è Gotta make a move to a time that's right for me. Che è uguale, no? Però poi stessa cosa, certo. Aveva più accento mal. Sì, esatto, infatti non, secondo me non, no, cioè non mi sembra americano, però... Ragazzi, allora, il contest di oggi, poi chi vincerà, noi andremo a fondo a questo quesito, ci faremo dire direttamente dall'autore originale che noi in realtà sappiamo chi è, quindi voi esprimetevi, chi vincerà il contest di oggi, che è il cantante che ha cantato la canzone di Lamù, è veramente inglese, americano o no, chi avrà indovinato dando la risposta più assurda vincerà... una cena con Marco Gualdi. Che poi se, dai, però poi tra l'altro se tu ci pensi, in realtà il fatto che lui stava in America e l'ha registrata a Los Angeles non vuol dire che era americano, cioè, ma in realtà poteva anche essere sai qual è il problema, non come si chiama il nome come vedi Lobby mi dice bravo Pizzi, si chiama Acufene, no, quello lo dice Davide Gatti, Lia, quindi... Allora l'autore, questo cantante pare sia Noam Caniel con la K, quindi se volete andare a fare una ricerchina magari scoprite Caniel. Anche che ha fatto qualcosa nella vita oltre che questa canzone. Chi? Caniel? Sì, Caniel, esatto, come Caniel. Vabbè, qui... no, Caniel è un'altra storia. Un pietoso, insomma, che... Vabbè, Simone, invece tu c'hai qualche notizia da portarci? Hai visto qualche film? Hai giocato qualche videogioco? Insomma, contribuisci un po'. Sì, anche, no? Venerdì in ufficio abbiamo fatto una gara che montava una sedia. Più velocemente sono arrivato secondo e ho vinto un powerbank. Questa è una grandissima notizia. Bello, bello in ufficio, fate ste... Sì, ha capito perché sei indaffarato? Lavori di Ikea praticamente. Anche. Esatto. Ok, quindi praticamente cioè, per spezzare la tensione quello serve. Sì. Più che altro come lavori se non hai la sedia? Ah, cioè non c'hai delle sedie, quella è la cosa bella. Quindi lavori, produci per te stesso, perché in realtà la sedia la userai tu. Tu ti costruisci il tuo ambiente di lavoro. Ma scusa Simone, no, adesso so che noi come radio di solito non siamo filosofici, ma permettimi questa divulgazione filosofica. Ma non è l'attesa della sedia, la sedia stessa? Esatto. La sedia stessa, esatto. Oppure come diceva Alex Raccuglia in un vecchissimo video che... Barca Madonna. No. In un vecchissimo video che potrei anche ricondividere perché è su YouTube, Alex parlando del ponte da Riccia parlava del ponte in quanto metafora di se stesso, che insomma è una cosa, ma era un Alex Raccuglia diverso, biondo tra l'altro, con i capelli e quando era ancora un regista affascinato. Oh, io non so se i nostri ascoltatori conoscono per cosa è famoso il ponte da Riccia, peraltro. Che non è mai una cosa che mi piaceva. Esatto. Però perché... Simone lo sa, vero Simone? Dici Simone. Per i suoi famosissimi murales molto belli, per il lancio per le mattoncini, per i mattoncini da cui è composto. Esatto, sono che spingono gli attraversatori del ponte a buttarsi di sotto. Esatto, no Simone, bravo, grande. Stavolta senza aiutino, perché purtroppo è vero, il ponte da Riccia, che è uno dei ponti più alti del Lazio, è famoso perché purtroppo ci si sono buttati di sotto per suicidarsi tante persone. Diciamo che non era nel senso. Sì, non c'era il parapetto, diceva insomma. Proprio buttate, cioè, esatto, dovevi solo far saltino. Ma io non me voglio buttare perché buttate perché vedi. Ma infatti questi murales erano tutti buttati, fallo, abbi coraggio, tutti questi murales molto famosi. Esattamente. E quindi poi invece hai visto un film, qualche film, telefilm, serie interessante? No, non vedo cose da un po'. L'ultima cosa che ho visto... Dici qualcosa, Simone, dai. Non lo so, l'altro ieri ho visto La morte in faccia. Ah, che diceva come... Mortacci tua! Diceva, morirai. Tu morirai. Basta, poi sono andata. Allora che cazzo è venuto? Hai fatto venire la morte, grande, Simone. Nel senso, è venuta così, per avvisarti che... Ok, più volte. Grande, Simone, mandingo. Gli hai dato giù proprio. Che ci do, direbbe il nostro. Senti, a questo proposito, prima di entrare, diciamo, nella zona cinema e affini, vogliamo proclamare il vincitore del contest? Il contest, sì, lo possiamo anche tranquillamente... Va bene, vai. Allora, ecco, vieni. Lo dico io perché allora lui è timido. E sì, però levati dal citofono, mortacci tua. Lo so che sei rimasto folgorato, però vieni qua. Allora, signori, momento di solennità. Vince il contest Una cena con Marco Gualdi, solo che qui non so se sarà in grado, non so, meno male che non paga Gualdi, ecco, mettiamola così. Con la scusa io non ascolto GM perché devo fare campagna elettorale, il signor Matteo Salvini. Mi raccomando, è cena con pane e salame. E tanto paga lui, perché sai, non so se tu eri al corrente del contest, il vincitore del contest sarebbe andato a cena con Marco Gualdi e gli avrebbe offerto la cena. Vabbè, ma senti, posso dire una cosa, male che vada, pane e Nutella, voglio dire, ma sicuramente ad andare a cena con Salvini, male non ti va. Cazzarola. Le basi. Così, mettiamo musica a casaccio qui. Con AB Power Crunch perderete 3 kg al giorno. Sembra molto molto una televendita. Sì, infatti questo brano si chiama Sport. Così, una cosa a casaccio. Ora metto una cosa solenne, ma non mi dai mai il tempo, non mi avvisi, non mi... Dobbiamo fare delle scalette. Dobbiamo, sì, mazza, sì, così perdiamo anche un po' di peso. Io ho due notizie, una tristissima, veramente brutta, perché viene da Repubblica, ed è una notizia seria poi alla fine, perché insomma, su un palazzo di Torino appare nuovamente una scritta: crepa sporca ebrea. Complimenti ragazzi. Bravi, tra l'altro ricordiamolo, oggi è il giorno della memoria, quindi si celebra appunto il ricordo di quella che è stata la tragedia della Shoah. Che paese di cui essere fieri e orgogliosi, veramente. Ma io penso che ma neanche la Germania negli anni 30, insomma. Tra l'altro in Germania sono preoccupati perché questo rigurgito neonazista si sta facendo notare anche lì. Perché hanno abbassato la guardia. Ho capito, però una volta che ti sei reso conto che nel resto d'Europa sta succedendo questo fenomeno increscioso, tu che sei un po' la patria di tutto questo schifo all'epoca, sei la prima che si dovrebbe tutelare, e l'Italia subito dopo, non è che l'Italia ci è andata leggera, però insomma, purtroppo, come giustamente tu hai già fatto notare, in questi giorni di triste memoria, perché sono passati credo 70 anni, 75 dalla Shoah, c'è chi ha il coraggio, poi il coraggio no, perché sono atti vili e vigliacchi, perché a mettere un adesivo su un portone e scappare sono capaci tutti, e quindi è successa questa cosa di questo portone che riportava quella scritta: qui vive la figlia di un ebreo o qualcosa del genere. Oggi veramente... è successo di peggio, perché chiaramente crepa sporca ebrea è bello, sì, io veramente non ho parole. Però è successa invece un'altra cosa, ma svampato l'hard disk. Che ragazzi. Quindi due coccodrilli oggi. Due coccodrilli, sì, esatto. Ma quello dei porno. Un orangotango anche. No, ma che c'è più bisogno dell'hard disk dei porno oramai? Cioè, nel senso. Guarda come sei tecnologico, pizzi. Vai www e calla. Tuttazzozza.com e via. Vabbè, comunque. Invece, a Simone Cusella, volevo dire, qual è il tuo rapporto con Star Trek? È vero, ne abbiamo parlato. Dai, no, ma se ne va se gli chiedi questo. Perché adesso purtroppo non ce ne tocca. Molto intimo. Intimo. Io Star Trek da piccoli giocavamo insieme a badminton e... Poi un giorno si è svegliato, ha detto, vabbè, io sono un alieno, e se n'è andato. Ma non è un alieno, non l'ho più visto. Non necessariamente. Che poi tutti, cioè, c'era una mia amica che diceva, ma Star Trek qual è? Quello con l'orecchia a punta? Esatto, certo. Esatto, infatti il signor Star di cognome Trek, con l'orecchia a punta. Vabbè. Vabbè, è un po' come quando a scuola ti dicono, come si dice immortale, e tu rispondi, Highlander. Cioè, sono quelle conseguenze, come dire, di questi, come dire... luoghi comuni, no? Cioè trasformi un aggettivo assolutamente diciamo contestuale rispetto alla traduzione in qualcosa che non significa. Poi gli spiego, guarda, Highlander è perché sono montanari, non vuol dire che sono un Highlander, non è un immortale, nel senso, cioè un immortale può essere un Highlander, con ma due parole, non è un immortale. Sbano, parole, mi vabbè, mi sono incartato, è ma un d'altra po' come parte. Quando tu a scuola, in classe, prendevi il cartoccetto, lo tiravi nel secchiello della classe, facevi centro e dicevi: e chi sei, Karim Abdul Cameo Chobar? Esatto, e non certo Kobe Bryant. No, no, quello. Ma anche sì, però fino a un certo punto. Eh certo. Cioè, nel senso, dice, fino a che punto vuoi essere? Fino a un certo punto. Perché... certo. E quindi Star Trek non era mio. Vabbè, però purtroppo Simone ti tocca. E quindi senso... abbiamo il momento di parlare di quell'argomento lì. Allora, non ne parliamo tantissimo perché, perché manca Gualdi e mi dispiace, perché anche lui voleva partecipare a questa cosa, però beccatevi la sigletta. Allora, partiamo da questo. Diciamo che, lo possiamo dire tranquillamente, a Walter Sbano non gli è piaciuta la sigla di Star Trek Picard. No, no, diciamo che non l'ho trovata epica come mi sarebbe piaciuto. Poi, tecnicamente, insomma, c'ha tutta la sua gradevolezza, non era... Perché è poetica. Sì, perché probabilmente le emozioni che cerca di suscitare non sono quelle canoniche di spazio di esplorazione, ma in qualche modo quelle un po' della rimembranza. Esatto, infatti è uscito. Infatti io rimembro. Tu rimembri molto. Tu rimembri. Io rimembro, so. Sì. Sì. Che poi tra l'altro questa sigla, cioè questo tema che dicevamo prima, ti ricorda qualcosa? Mi ricorda ma non qualcosa si... ma mi sfugge perché è proprio il tentativo di rievocare un qualche collegamento con un'altra cosa che non è necessariamente Star Trek, ma non, in questo momento non mi viene, ma a forza di ci arriveremo. Poi ci arriveremo. E diciamo, è uscito finalmente questo tanto atteso Star Trek Picard, che è una sorta di serie di svolta, diciamo, è una serie che vuole essere una cosa diversa, cioè sì. Hanno preso Patrick Stewart, gli hanno detto, Patrick Stewart, ma fa una serie su Star Trek? Lui ha detto sì, però soltanto se famo una cosa diversa, perché a me te fa il capitano dell'Enterprise a 97.432 anni, non me va. Raccontiamo una storia in un universo che è quello conosciuto di Star Trek, dove c'è una persona anziana che ha una missione in quanto è rimasto, come posso dire, legato a delle cose in sospeso. Diciamo. Ma tutte queste cose lui le ha dette? No. No, tutti i sogni che si è andato così, diciamo, tu nel tuo immaginario no, di fan... No, lui nell'intervista l'ha detta sta cosa, cioè, l'ha anche dichiarato nella cosa a Lucca, no? Cioè, nel senso, comunque, genericamente, raccogliendo le varie interviste, lui ha detto questo, cioè, nel senso, lui voleva raccontare una storia diversa di una persona che chiaramente, con le sue attuali debolezze, della persona chiaramente anziana... che aveva, erano rimaste delle questioni in sospeso, infatti lui già dall'inizio fa capire che si era stufato di star lì a aspettare il giorno di morire, no? Cioè, nel senso, perché va a fine e insomma, e parte teoricamente, dovrebbe partire per una big quest che lo riguarda intimamente, oh. Perché so, allora, intanto diciamo una cosa, diciamone due a beneficio di chi non dovesse ancora aver visto la prima parte. Intanto questo episodio è, diciamo, la prima metà del classico episodio doppio. Questa volta Amazon Prime Video e CBS All Access con le baccette corte, hanno deciso di non fare, diciamo, quella consuetudine in cui il primo episodio doppio viene rilasciato per intero in una sola serata, quindi sappiate che forse vi conviene aspettare venerdì e vederli tutte e due le parti insieme. Detto questo, una buona notizia che sicuramente farà piacere a tutti quelli che ancora non lo sanno è che per la produzione e la sceneggiatura di questa serie sono stati defenestrati tutti gli amici di J.J. Abrams. Sì, tranne Guzman. Sì, però in realtà sì, però perché c'è probabilmente una continuità, però io lì vedo molto più la mano di Akiva Goldsman e di altri produttori e sceneggiatori che sono riusciti, almeno dal primo mezzo episodio, a ridare determinate atmosfere logiche alla storia, perlomeno. Le atmosfere visive sono completamente diverse da qualunque Star Trek precedente, perché cambia completamente ogni contesto. C'è quel feeling cinematografico molto... Ricorda un po', per qualche senso, ma dato il senso del Mandaloriano, no? Cioè quell'opera contestuale ma decontestuale, no? Che cerca un feeling cinematografico particolare, bello, tra l'altro, secondo me anche visivamente bello, dai, bisogna dire che... al di là di quello che uno ne pensa. Allora, diciamo che il primo episodio ha messo dei presupposti, ha creato i presupposti, l'incipit per una trama che poi si dipanerà per i prossimi 9. È un episodio anche molto furbo, perché molte atmosfere sono tutte terrestri, molte location, eccetera, quindi ancora non sappiamo cosa ci dobbiamo aspettare da un punto di vista, diciamo così, visivo. Però comunque sia le location e le scelte per gli effetti speciali, anche per una scena di combattimento corpo a corpo, devo dire che sono state più che interessanti per essere una serie di Star Trek e per essere una serie televisiva. E ovviamente la trama non la raccontiamo più di tanto, diciamo che gli eventi si ricollegano ad una serie di cose vissute nel passato di Picard direttamente, ma non soltanto. C'è anche questa storia di questa tragedia per cui sostanzialmente Romulus è esploso, quindi tutti i Romulani superstiti non hanno più un pianeta natale. Tant'è, e a me questa cosa un pochino mi ha fatto, come posso dire... un pochinino mi ha fatto specie per quella che è, diciamo, il rispetto delle razze e della multietnicità che sempre Star Trek ha avuto, vedere che c'è Picard che in casa c'ha, diciamo, tra virgolette, sotto forma di domestici, ma lo dico bonariamente, una coppia di Romulani, ma non può ricordato Mami di Via col Vento, non so perché. Ma no. ma il rapporto non era proprio paritario, fossero schiavizzati, non dico quello, però ti dava l'idea di... non fa niente da qualche altra parte. Quelli per riconoscenza stanno là, gli vanno da badanti, ovviamente. Mi è sembrato un po' anacronistico per Star Trek. È tutto là. Più il fatto che comunque lui dice: noi andiamo a salvare i Romulani, poi a un certo punto non abbiamo deciso di non salvarli più, e quindi siamo diventati dei criminali. Lì c'è stata un'invettiva contro la Federazione, perché evidentemente ci dobbiamo aspettare una Federazione che non è quella di valori solidi e granitici alla quale siamo sempre abituati. Qualcosa è successo. Però vabbè, quello che... perché poi sono degli due elementi fondamentali a livello di trama, che il primo episodio debutta subito lì, proprio anche tramite un pretesto che tra l'altro secondo me è azzeccato, che alla fine comunque trasformano molto il plot narrativo e anche un po' la timeline, andando insomma verso una piega più complicata, diciamo, di quello che è stato sempre l'universo di Star Trek che noi abbiamo visto. Comunque, intanto diamo una notizia importante, molto fanservice: a dicembre, per chi non lo sapesse, CBS e Paramount si sono nuovamente riunite sotto la stessa ala, sotto la stessa egida, sotto la stessa, diciamo, proprietà. Di conseguenza i diritti, che erano stati in qualche modo divisi a metà con l'accetta, sono tornati ad un'unica proprietà, che è sempre la Viacom. Di conseguenza non serve più il famoso universo Kelvin che J.J. Abrams aveva tirato fuori dal cappello per poter usare Star Trek al cinema. Quindi tutto quello che in qualche modo non ci è piaciuto dell'universo Kelvin ce lo possiamo dimenticare, perché non sarà più necessario utilizzarlo. Esatto. E infatti questa serie riparte da quello che aveva combinato Nero nel primo Star Trek cinematografico di Abrams, ma prima di andare nel passato. Giusto, Simone? Giustissimo. L'altro Simone. Sì, no, quello che ha scritto. Sì, no, Davide ha fatto un po' di... A parte Davide, un po' di disamina interessante adesso, che io leggerei. Adesso ci andiamo, infatti. Comunque, detto tra noi, noi sapevamo che era una serie diversa. Alcuni di noi avevano delle aspettative, altri avevano altre aspettative. Io posso soltanto dire che quelle che sono le aspettative che avevo io sono state abbastanza pienamente rispettate e sono contento di questa cosa. Il fatto di raccontare una storia che è sì in quell'universo, ma è una storia diversa, è una storia con un approccio diverso, a me questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Il fatto di raccontare un personaggio che era un grande uomo con le debolezze di un vecchio che si spaventa ogni due per tre, che non ce la fa correre, che non ce la fa che piscia a letto, no, no, no, quello ancora no, però comunque è che ne sai tu, tra l'altro, infatti tu non è che ci sono i romulani e puliscono, esatto, Morelli. e quindi questa cosa a me è piaciuta moltissimo. Mi piace anche il fatto che Kurtzman, che è comunque l'ultimo residuo della Bad Robot, diciamo così, ha preso in mano insieme al figlio di Gene Roddenberry, che adesso non ricordo come cazzo si chiama. Simone, come si chiama il figlio di Gene Roddenberry? Spor. No, ma tu di un nome che è capace pure che ci azzecchi, cioè nel senso di un nome americano. Non so, Rambo. Rambo. Era il figlio di Rambo. Rambo Roddenberry. Rambo Roddenberry hanno preso in blocco praticamente tutte queste nuove creazioni di Star Trek e gli stanno dando una sorta di li stanno plasmando. Comunque è Eugene Roddenberry, ve lo dico, okay, io. Eugene. Genio. Gli stanno dando praticamente una sorta di nuova coerenza, cercando di dare la possibilità a tutte le serie più o meno collegate fra loro di rispettare un certo tipo di andamento, e questa è una cosa positiva, perché chiaramente quello che noi vediamo oggi su Picard chiaramente avrà dei risvolti su quello che succederà nella terza stagione di Discovery, e questo devo dire che è l'unica cosa veramente positiva per la serie, perché secondo me Kurtzman, da quando ha ripreso in mano questo brand, dando anche agli sceneggiatori adeguati la possibilità di scrivere anche in libertà, secondo me ha salvato la serie, perché la prima stagione di Discovery veramente, ragazzi, è stato un momento drammatico dal quale potevamo uscirne veramente male, e invece oggi sono grandi prospettive. Cosa ne pensate voi di questa serie di Picard? Se l'avete vista, scrivetecelo, che così la prossima settimana ne parliamo. Intanto ho visto che Davide Gatti ha fatto insomma tutta una sorinanza di e Walter. Sì, perché dice sostanzialmente due cose molto giuste e molto sbagliate. E molto importanti. Cioè dice molto giuste e molto sbagliate. Mette un po' in parallelo Discovery con Picard e dice che la serie Picard è sicuramente più orientata alla nostalgia, diciamo, no? Ai fan di vecchia data, mentre Discovery in qualche modo era, diciamo, un tentativo di comunicare a generazioni diverse, quindi resettare un pochino determinati stereotipi e rendere lo show adatto a un pubblico più giovane. Infatti Picard, e poi magari ne parliamo anche la prossima settimana con Marco, già nel primo episodio è pienissimo di citazioni e di, diciamo, rievocazioni della serie di cui è diciamo così, nipote, no? Si conta che la The Next 31 Generation. Easter egg. 31 easter egg solo nel primo episodio. E poi dice giustamente Davide, finalmente una serie luminosa e solare, basta con le atmosfere alla Blade Runner. Ma in realtà le atmosfere spaziali tendono ad essere alla Blade Runner, perché ovviamente nello spazio non c'è luce naturale. Finora sta tra la vigna e San Francisco Bay, è facile insomma ci sia un po' di sole. La cosa che dobbiamo capire è se poi lui partirà per un'avventura e dove lo porterà. Io intanto sono curioso. Noi lo sappiamo che lui parte da prima. Sì, vabbè, certo, è chiaro. Lo si vede già dai trailer. Però io sono curiosissimo di vedere la gag, che sicuramente è stata già, come dire, in qualche modo telefonata, perché è evidente che sarà così. Quando numero uno incontrerà numero uno e Picard dirà: numero uno, e chi se gira? Sì, beh, non è detto però che se lo porta dietro, che non se mai no, vabbè, dietro, però, boh. Vabbè, perché in effetti è vero, è Picard che va da numero uno e non numero uno che... Esatto. Questo perché per chi non avesse visto il primo episodio, non credo sia uno spoiler, lo possiamo dire, Picard ha un cane e si chiama numero uno. È scritto in tutte le interviste. C'è questa simpaticissima, come dire, consuetudine. Che poi, alla fine, secondo me, questa cosa di... del richiamare in qualche maniera anche i vecchi personaggi è sì molto fanservice, come dicono in tanti, però è anche un, come posso dire, dare una sorta di continuità al fatto che lui in questo momento, per partire per questa quest, questa grande missione, ha bisogno dell'appoggio di qualcuno. Qualcuno lo piscerà, qualcuno lo aiuterà. Vedremo in che modo, insomma. Sì, ma secondo me questo episodio vuole essere una, cioè questa serie, questa prima stagione, perché intanto per la cronaca è già in prelavorazione la seconda stagione, che è stata già confermata, e peraltro Patrick Stewart su un palco ha proposto ufficialmente, in maniera anche molto applaudita dal palcoscenico, a la mitica Gainan, quindi a Whoopi Goldberg, di prendere parte alla seconda stagione. Però sembra un po', ecco, una passerella di una serie di vecchi amici, quindi è un po' come un revival, e questo comunque ci farà senza dubbio molto piacere. Sappiamo che in vari episodi ci sarà presente, credo almeno in 4-5 episodi della stagione sarà presente Jerry Ryan quindi 7 di 9. Sappiamo, perché lo abbiamo visto nei trailer, che comunque molti personaggi del ponte originale, quindi quantomeno il primo ufficiale, la consigliera e Data, ci saranno in una qualche forma, per una qualche durata in questi episodi. Quindi è proprio una passerella di vecchi amici che si ritrovano per questo motivo. Poi, l'attore che fa Data, Brent Spiner, è proprio nei titoli di testa, quindi parte integrante. Tra l'altro, i giornalisti, anche quelli di Every Eyes, Multiplayer, roba del genere, hanno visto le prime quattro puntate, mortacci loro. E quindi stanno già un pezzo avanti, infine pare che sono 8 o 10. No, sono 10, ma credo 10. Che loro abbiano visto le prime due, non vorrei sbagliare, però comunque due, credo abbiano visto il pilot per intero. La domanda che secondo me in qualche modo si è posto già Davide Gatti in chat, perché ha fatto il riferimento alla partita poker con 5 donne, no? I Q, Data. Tutti i Q, ma ci sarà. Ma quello è un sogno comunque, ragazzi. Cioè, sì, però al di là di quello, cioè... Sì, è un richiamo, chiaramente un richiamo. Poi dopo se ci sarà o no, io non lo so. Il mitico John DeLancey, ragazzi, che poi c'è da dire... Che è morto. È morto John DeLancey? No, mi pare di sì, cioè, io l'ho visto recentemente... Ed era morto. Invecchiatissimo in un film, però... Poi dopo vado a cercare. Va bene. Ragazzi, la prossima settimana con Gualdi ne parliamo. E penso che faremo veramente uno specialone, perché finalmente avremo visto il secondo episodio e finalmente potremo fare anche una sorta di primo... Come posso dire? Prima analisi, ecco, diciamo. Esatto, così. Una prima analisi, però diciamo un pochino più conscia e più congrua, perché più consapevole, perché avremo chiuso il cerchio del primo episodio. Certo. Che primo episodio che Simone Guse l'ha visto, giusto? Ovvio, 10 volte. Ce lo racconti, per favore, così, perché mi l'hanno chiesto, allora... mi hanno proprio scritto e hanno detto fate fare il riassunto a Simone Gusella. Allora, in una galassia lontana c'era questo tizio di nome Star Trek, e lui era un re interstellare molto molto famoso, e da bambino viveva tra Rieti, Reggio Calabria, Reggio Emilia, un po' dovunque, giocava a hockey con un ragazzo italiano. E chi è? Ancora? Scusa, Pizzi, era John DeLancey, ha detto li mortacci tua. Ok. Ma lui è cue ovunque, quindi... Eh sì, però no, voleva ribadire che non è morto. Però ecco, mi piaceva il racconto di Simone. Allora, Star Trek, che poi, cioè, come lo descriveresti sto Star Trek? Sto Trek. Esatto. Ma una persona Trek. Simpatica, salutava sempre, era sempre molto gentile. Poi un giorno si è svegliato e ha ammazzato tutti. Così. L'hanno mandato in esilio nello spazio e allora ha creato il suo impero così per vendetta. Ma come ce l'hanno mandato in esilio nello spazio? Dentro la NA? Dentro una fionda gravitazionale. Gravitazionale, quindi lui è nudo nello spazio. Ovviamente sì. Come fa a sopravvivere? Diciamo che si è creato una sua atmosfera molto particolare, anche Corpuro. Riscaldata. Esatto. Non se la cava male in realtà. Però prima o poi finisce anche quella. Sì. Però aiuta, perché così non si disidrata. Certo che il povero... è l'aria liquida. Il povero Picard dallo spazio all'ospizio è stato un attimo, ci pensavo adesso, perché poi effettivamente, insomma, veramente le vicissitudini di un uomo anziano, non di qua... non è l'ospizio. Quanto? Cioè. Sì, beh, lo so, però dai, quanti anni ha Jean-Luc 92. Picard? No, secondo me di più. No, 92. Solo 92? 92. È ufficiale. Ah, beh, avrei detto almeno una decina in più. No, 92. Questo dissertavamo l'altro giorno, credo con Rizzard, ne parlavo proprio in chat. Il la cosa particolare, se ci pensate, se torniamo indietro al capitano Jean-Luc Picard che saliva per la prima volta a bordo dell'Enterprise nel nostro 1987, quanti anni gli davate all'epoca a Patrick Stewart? Ce n'aveva 40, cioè l'età mia adesso. Allora, per me Patrick Stewart è sempre stato vecchio. Se l'è portati, esatto, era vecchio da giovane, adesso invece tutto sommato si è riequilibrato. Oddio, adesso, allora, io quello che non capisco, anche se penso sia voluto, è questi straprimissimi piani, che sono veramente impietosi, ma penso che siano voluti, perché lui comunque... vabbè, no, ne parliamo allo stesso. Diciamo che se avessero voluto, col trucco l'avrebbero potuto far sembrare anche un po' meno anziano e un po' meno stanco. Invece, evidentemente, credo sia una scelta quella di mostrarlo per quello che è, diciamo, anche con determinate debolezze e determinate vulnerabilità. No, ma ci sta, dai. Bravi, bravi. Hashtag bravi. No filter. No filter, bravo. Ma Simone, tu quando sarai vecchio, quanti anni avrai? 23? 27 penso. Quali saranno le tue condizioni fisiche quando ce l'avrai, che ne so, tra 60 anni ce l'avrai 27 anni? Penso che sarò in un corpo di latta e vi osserverò da dietro a un vetro molto spesso dentro un fluido e a posto, sì, proprio Futurama, sì. Insomma, a proposito ragazzi, visto ma che... solo la testa? Non solo la testa, dentro il corpo proprio. Solo il un po' tutto. Ok, ma tu sarai un motore di rendering, quindi rendering, vi renderò schiavi. Volevo dire una cosa, ragazzi, visto che siamo nel momento cinema TV, che nei prossimi giorni, a febbraio, adesso non ricordo bene le date, però al di là del fatto che uscirà la quinta stagione e penultima, perché poi ce ne sarà anche una sesta, di Better Call Saul, importante, su Netflix uscirà la seconda stagione di una delle serie di fantascienza che a me sono piaciute di più in questi ultimi anni e che forse è una delle cose migliori che a gusto mio ha tirato fuori Netflix tra gli show autoprodotti, che è Altered Carbon. Ah, bella, io farò un po' fatica perché vabbè, poi dopo ne parliamo anche. Però devo dire che la scelta dell'attore che sarà la custodia di Takashi nella seconda stagione, che cambia completamente, è ricaduta, non so se lo sapete, su Anthony Mackie, che è l'attore di colore che interpreta Falcon nei film degli Avengers. Boh, proprio un cambio di rotta totale, diciamo, molto, molto diverso. Già era simpatica l'idea di questo personaggio, la cui memoria era di un uomo giapponese, perché non si chiama Takashi Kovac a caso, ma perché è giapponese, però stava nel corpo di quest'uomo, diciamo, questa branda di 2 metri per 1,5 di spalle, di origine americana, non sappiamo il suo attore, diciamo, rappresentante di dove fosse. Adesso invece cambia e il suo, diciamo, la sua nuova custodia, perché ricordiamoci, in Altered Carbon la personalità, la memoria, la mente viene salvata in dei dischi che poi possono essere spostati da un corpo ad un altro, che vengono definiti custodie. Questo è un po' Ghost in the Shell, un po' tante altre cose che diciamo, sì, ne hanno già mutuato in termini di letteratura. Però insomma sono curioso di vedere questa seconda stagione. Invece Simone, è uscita la nuova stagione di Rick e Morty. Sì, ho visto le prime puntate. Beh, non male. Ok, cioè il tenore si mantiene sullo stesso livello o c'è una flessione? Secondo me la terza rimane migliore, rimane un po' più bella. Tra le, cosa sono, 4-5 puntate uscite, solo una mi è piaciuta tanto tanto, come quelle vecchie. Tanto, le altre tanto, tanto. Certo, tanto tanto tanto. Le altre un pochino meno. Sono comunque belle, però manca quella, come si può dire, quella follia, no? Quel nonsense. Sì, vi dico solo che la mia puntata preferita ha tema cacca e cessi. Molto bene, autobiografica. Esatto. Ricordiamo che gli autori di Rick e Morty, anzi l'autore, perché ne sarebbe rimasto uno solo, uno non è morto, no. Forse era il produttore. Oggi c'hai la morte facile, la morte, esatto. Sei, il triste metitore. Comunque, che vabbè, il team che lavora praticamente a Rick e Morty sarà colui che realizzerà gli short, anzi non gli short deck, allora la serie animata di Star Trek che si chiama Lower Deck, ok, quindi praticamente faranno una, infatti si vede dai disegni che sono praticamente uguali a, a Rick e Morty, cioè, quella classica animazione bidimensionale lo, che lo piace stile, molto sì, agli sì, americani. Lo stile è molto quello e anche i personaggi sembrano abbastanza strambi e quindi probabilmente verrà fuori insomma la prima serie animata di Star Trek. Speriamo che non venga fuori una cosa da Cartoon Network, che per carità è uno stile, però diciamo certo, cioè nel senso è conciliare l'ironia alla Rick e Morty all'universo Star Trek è veramente una sfida ardua e quindi siamo pronti a, con curiosità insomma, beh qualcuno giustamente potrebbe dire fate le due risate ogni tanto perché no, c'ha no, anche insomma, ragione infatti, in effetti è vero, in Star Trek non si ride mai, cioè non c'è spazio per l'umorismo. Beh, fino a un po' di tempo fa non c'era spazio neanche per i cessi, insomma, se, se ci ricordiamo, insomma, no, questa è una cosa così, insomma, ricordiamo che poi alla fine si, si vantavano praticamente, io mi ricordo quando compravi i compendi, no, de, che ne so, la serie The Next Generation, si diceva, è la serie dove non è mai apparso un cesso. Beh, non è che nelle serie televisive siano, a meno che non ci muore qualcuno dentro, non beh, è no, che... Beh, no, dai, beh, cesso si vede, dai, capita, insomma. Se, se beh, ma hanno evoluto le loro necessità nel futuro. Esatto. Anzi, forse il cesso è apparso per la prima volta nella serie Enterprise, quella col capitano Archer, perché si vede diverse volte il cesso, oppure che si fanno la doccia o cose del genere. Beh, d'altra parte erano, diciamo, era ambientato molti anni prima, quindi in quei casi forse ancora l'esigenza. Perché poi, Simo, chi te lo dice che il cibo replicato poi lo devi cagare? È vero, potresti anche dematerializzarlo direttamente con un mini teletrasporto portale. Magari, magari sì, lo, lo auto che si autotrasforma in, che ne so, in aminoacidi dopo che l'engo in, che ne vedi, so. Io e Piergi ci abbiamo avuto la stessa idea. Avevano le mutande con il teletrasporto. Grande Piergi, per questo ti stimo tantissimo, anche se... Avevano il pene trasporto, giusto? Il pene trasporto. Anche il pene trasposto. Anche senso. Da sporto, sì, volendo. Da, da sport, sì. Perché ricordiamo che Data è programmato in tecniche multiple, gli altri non si sa. Gli altri non lo so. Vabbè, ma volevo dire anche altre cose mentre parlavo prima con Simone, ma poi... Ah, sì, sì, sì, io concluderei. So che abbiamo delle notizie, però tanto questa puntata... No, abbiamo dato, abbiamo dato. Un po' strano. Io concluderei con una recensione tecnica. Una recensione tecnica, quella proprio da nerd. Chiedo a Simone, che voi non sapete... Ma per la massima inutilità, penso io, poi dopo in realtà, ma poi non è vero, non lo penso, è solo per un pegno un po' al cazzo. Per la massima inutilità lui si è comprato la stampante 3D, giusto? Esatto, esatto. Ok, facci la recensione della stampante 3D. È la cosa più inutile che tu abbia mai comprato in vita tua? Assolutamente sì, non lo ammetterò mai. Difatti, no, no, non è inutile. No, però, no, diciamo, allora... diciamo, ecco, ma parlane un po'. Ci mandi un pizzino in 3D, dai, ti prego. No, questa non lo devi stampare adesso. In 3D molto così. No, no, no, no, allora... ci siamo capiti. Vogliamo un pizzino, lo fai, lo modelli in 3D studio e lo stampi. Ma magari metto qualcosa nella chat studio. Di... Ma come 3D studio non si userà da 20 anni? Per dirne uno, non lo so con che, no, che no, software si usa. È ancora vivo, è ancora vivo. Ah, c'è ancora 3D studio. È diventato Max, lo sto usando e lo sto odiando come poche cose al mondo. Ah, e com'è che stai lavorando su 3D studio invece su Maya o su, su tanti perché... altri? Perché il padrone quello vuole. Non lo so. Praticamente sì, perché stiamo lavorando... collaborando con dei francesi e hanno fatto un programmino per esportare tutti i vari pezzi che passa da 3D Studio Max e quindi passa tutto da lì e purtroppo ci dobbiamo adeguare e sto scoprendo delle cose raccapriccianti su sto programma che, aberranti, ma è un programma pure sì, vecchio, abbastanza eh. Diciamo che anche allora, quando 3D Studio non è mai stato insomma tra i top software utilizzati a livello professionale, però veniva utilizzato. Comunque, alla fine è il programma dove io ho mosso i miei primi passi nel 3D e poi dopo l'ho lasciato perdere perché non lo so, poi mi piaceva più giocare. Insomma. Detto questo, insomma, torniamo alla stampante 3D, che è interessante. Fai una recensione seria, ma dicendo anche delle stronzate. Seria, se no, seria. Se no ci annoiamo. Allora. Seria fino a un certo punto, insomma. Seria, seria, ho preso una Anycubic i3 Mega per i curiosi, ben 145 euro su eBay direttamente dal produttore che ha dei magazzini in Europa. Quanto? E... quanto? 145. 145. E, curiosità, realtà... ci dici le dimensioni anche per capire l'ingombro di un oggetto del genere in casa? Due peni per tre. per 5. Dipende da quali peni. Se sono 2 per 3 per 5 di Rocco Siffredi, ti serve una stanza, bello mio. Oppure John Holmes anche. No, è cos'è? 35 di larghezza, 40 di altezza e 35 di profondità. Quindi ma è... che sti cazzi, dai. È una mia curiosità, contenuta. Perché insomma non è che la metti dappertutto, non è esattamente... no, infatti, è abbastanza contenuta. Difatti, vabbè, già che l'hai accennato, diciamo, bisogna un po' trovare posto, perché non tanto per lo spazio, ma perché è un po' rumorosa. Insomma, lavorandoci a mezzo metro di fianco... devo avere le cuffie con la musica a palla, perché insomma, spazio, così divento sordo. Spazio, e non ultima frontiera, più. Praticamente. Esatto. Senti, immaginando di stampare un oggettino di forma variabile, che però diciamo occupi un ingombro, facciamo conto un dildo, un dildo. Sì, un oggettino che ne so, di facciamo finta 3x3x3 cm, dai, una cosa piccola. Quanto tempo ci impiega? 3 cm per 3, fammi vedere quanto è. 3 centimetri, boh. Si è guardato nelle mutande per saperlo. In realtà dipende. Sì. Dipende dalla complessità della forma, ovviamente. Da quanto lo riempi, perché praticamente il modello che tu crei a computer è un tipo un origami, no? Cioè un contorno di carta, ma non ha spessore, non ha volume. Certo, lui deve riempire tutto, per ogni strato deve riempire la parte interna della forma. Esatto. Puoi decidere di farlo completamente pieno, che vabbè, in realtà è quasi sempre inutile, è uno spreco, o in quel caso ci mette anche un'oretta, questi 3 cm cubici. Se no, io uso un riempimento del 10-15%, 15 minuti, penso, giù di lì. Ovviamente ogni stampa è di un singolo colore, perché poi se devi fare un oggetto multicolore lo devi scomporre in pezzi e poi ricomporli, perché un filamento alla volta, giusto? Sì, se no, se vuoi fare il sofisticato, ci sono le stampanti con più estrusori che vanno... cioè in un colpo solo ti fanno l'oggetto con varie plastiche colorate. Okay. Addirittura ho visto uno che si è autocostruito una roba a 4 estrusori, che vabbè, è una roba esageratissima. Però fighissimo. Beh, immagino. E in realtà è una bella stampante, una bella qualità. E, vedo foto di tanti che magari hanno una stampante da 200-300 euro, che come qualità siamo lì, non è che siano molto più evoluti. E veramente l'unico difetto è un po' il rumore. Mm-hmm. Per quello... Ma più o meno di una stampante ad aghi degli anni 90? De più. Ma poi che ne sa lui da stampante ad aghi? Ma io ci giocavo sempre stampante ad aghi. Cioè, li tirati. Era la porta da hockey quando giocavo con Kobe Bryant. Usavamo le porte fatte con le stampanti. Erano abbastanza larghe. Senti, Simone, ma uno me lo sono sempre chiesto. Non credo che ne comprerò mai una, perché veramente... Però mi sono sempre domandato, uno come me che di dimestichezza con il software 3D ne ha zero. Sarebbe in grado di modelli. Certo, non immaginerei mai di disegnarmi da solo una forma 3D da stampare, ma usando modelli predeterminati, importabili, eccetera, una persona normale riesce in qualche modo a venirne a capo, o servono comunque delle conoscenze? Allora, ci sono un sacco di siti che danno la possibilità di condividere i propri modelli. E in generale sono fatti molto bene. Chiaro, devi avere un minimo di occhio, perché alcune stampe sono problematiche, quelle che hanno molte parti sporgenti, e insomma quelle fanno un pochino fatica, bisogna stare attenti. Quelle più compatte, con poche sporgenze, pochi archi, pochi buchi qua e là, sono quelle più semplici. Ma in realtà anche senza sapere disegnare si trovano un sacco di robe utili. Ci sono dei formati file universali, o comunque per ogni stampante serve un formato specifico di file? Allora, ci sono i modelli 3D che hanno in realtà due formati, che sono OBJ e STL, che sono universali. Vabbè, object, e poi praticamente però questo qui Sì, ma beh, sì, sono piuttosto vecchi, soprattutto le STL. Però questi qui, come dicevo prima, sono dei gusci vuoti, non hanno niente all'interno. Ci vuole un programmino che letteralmente ti seziona il modello, ti fa strato per strato come stamparlo e ti trasforma l'oggetto in un G-code, si chiama, che è molto semplicemente una serie di istruzioni. Dice: in questo momento l'estrusore va qui con questa temperatura, con questo e quell'altro, cose così. No, scusa, ti devo, perché Rizzard ci dice che giustamente su Pornhub ci sono le layout per tutti i gusti e tutti i modelli di stampanti, insomma, quindi ecco, siete aggiornati. Simo, invece io ti faccio 3 domande in una, così poi chiudiamo anche questa cosa. Allora, 1, costo dei consumabili. 2, soprattutto la cosa più importante, manutenzione, quindi pulizia degli estrusori. E 3, tu che cazzo ci hai fatto fino adesso con questa stampante 3D? A parte allora, costi, in realtà c'è la plastica, una plastica economica, molto molto economica, è tra i 10 e i 15 euro, se no una di una buona qualità va sui 30-40, poi vabbè, si può anche salire per robe molto particolari, e in realtà c'è poco altro, si usa la lacca per i capelli per far aderire gli oggettini al piatto, che sta, vabbè, fa sempre un po' ridere, ma aiuta, è la cosa più economica e che funziona meglio. E manutenzione, in realtà direi medio bassa, sono piuttosto resistenti, vanno controllate, più che altro prima delle un intoppo dentro, sì, esatto, per esempio i filamenti prendono umidità, cosa che ho scoperto in questi giorni e che mi ha dato un pochino di problemi, ma vabbè, niente di impossibile. E basta, va pulito il piatto, perché sennò si impasticcia tutto. E sì, giustamente Rizard dice PLA e PVC come materiali più diffusi. Sì, il PLA è molto semplice da stampare, tra l'altro, perché ha una temperatura di fusione un po' più bassa, se no c'è l'ABS che è più indicato per parti rigide, magari anche meccanismi, parti che devono reggere pesi, però tutto quello che viene stampato a una temperatura più alta ha anche una forte tendenza a contrarsi, perché la materia ovviamente quando si raffredda si restringe. Poi è una figata che ci sono materiali flessibili, per esempio c'è il Ninja Flex, letteralmente ti fa un oggetto malleabile, deformabile. Si può addirittura stampare con la fibra di legno, ci sono un po' di esperimenti con il metallo, poi vabbè, un sacco di roba, vabbè, nylon, vabbè, andiamo al dunque. Tu invece che cosa c'hai, cioè, allora, prima di tutto, qual è la motivazione che ti ha spinto? Vabbè, però tu già ne parlavi da tanto tempo di questa cosa, che sì, la desideravo da almeno 3 anni. E che c'hai fino adesso, che c'hai fatto? A parte, allora, ci ho fatto le prime cose, che uno fa le cazzate, cioè comunque per sfizio diciamo, faccio una cazzata, però poi dopo che c'hai fatto? Allora, dopo la prima cazzata, che ho usato molto e di cui sono molto soddisfatto, ho fatto un po' di personaggini. Ho fatto monocolore, penso, immagino, no? Poi te li sei colorati da solo. Esatto, un paio di robe le ho messe anche in MDB nella chat. Ho fatto, sì, ricordo, sì. Hugh, robottino di Final Space 2. Ho fatto Cuphead in queste sere che mi sto pitturando, e quella è tanta roba, vi farò vedere, perché non è una semplice statuetta quella. E poi ho fatto anche degli oggettini utili. Ho fatto un supporto per neon per l'acquario, che vendevano alla modica cifra di 7 euro l'uno al negozio, invece io con tipo 50 centesimi di materiale ne ho fatti 2. Un supportino per un profumo da infilzare con dei bastoncini di legno. Per un mio amico ho fatto un portacartucce per la Switch a forma di Pokéball, però cubettosa, tipo low poly pixelosa. Vabbè, sì, tanto non è che deve essere. E, boh, cos'altro ho fatto? Senti, ma qual è la dimensione più grande? Cioè, l'oggetto, cioè le dimensioni più grandi che raggiunge con. Cioè, qual è lo... allora, quali sono le dimensioni più grandi che puoi realizzare? Questa stampante fa un cubo di 20 cm, quindi anche abbastanza importante. Se no, ce ne sono alcune che fanno anche 30-35 cm. E sono, ci sono le Delta, che sono un modello particolare, le cosiddette stampanti da vasi, perché fanno robe alte anche 40 cm e sono veramente imponenti. Dimensioni medie direi 20 cm, 25 più o meno, su questi modelli basilari. Okay. Vabbè, dai. Comunque, comunque ti stai a dirti. Comunque sì, sì, è una bella macchinetta, è divertente e anche utile quando ti capita qualcosa da sostituire, qualche pezzo che si rompe. Tipo, che ne so, se te rompi un braccio. Te lo fa in 3D, sì. Come ha fatto, il protagonista di Final Space, già che l'hai citato, perché insomma lui, esatto, perde un braccio, fa la stessa cosa. Spoileriamo a casa. Vabbè, succede nelle prime puntate, mica. Va il bene. Problema è che perdendo un braccio dovresti disegnarti il rimpiazzo con solo una mano, quello potrebbe essere un problema. Vabbè, certo. Dipende dal braccio. Se perdi la mano abile può essere fastidioso. Se è il sinistro o se col destro ce la fai, dai. Dipende se sei mancino come me, è un problema. Appunto, dico, se è il sinistro, vabbè, certo. Ah, sei mancino tu? Già. Che schifo. Sono proprio sinistro. Va bene, ragazzi, è stata una puntata soft ma caruccia. Abbiamo, insomma, parlato di cose importanti, abbiamo parlato di cose di cui non ci frega un cazzo. Dalla prossima settimana torna anche il Gualdi, Simone, se vuole, insomma. Sempre che lunedì non debba andare a cena con Matteo, perché non lo sappiamo. Il giorno non è stato ancora stabilito. No, però il lunedì non si può fare. Sì, è vero, molti sono chiusi. No, poi il lunedì si va a fare. Se c'è OGM, allora cominciamo. Ah, pure io lunedì c'ho da fare. Che cazzo, cioè. Scusa. Hai l'opportunità di andare a cena col Capitone e non lo friggi? No, io... Boh, finirebbe brutto proprio. Ma sarebbe proprio ora, Va bene. Dai. Detto questo, poi Simone, se vuole tornarci a trovare anche lui quando vuole, lui lo sa che lunedì noi facciamo le puntate. Ma sì, perché no? Deve essere, però magari diverte. Portati, che ne so, un film che hai visto, una serie, che una notizia, qualcosa. Di questa sera, per esempio, non abbiamo parlato del coronavirus, e forse anche meglio. Ma sì, aspettiamo. Se saremo vivi per le prossime puntate, aspettiamo che diventi pandemia e poi ne parleremo. La cosa divertente è che pochi giorni prima dell'annuncio io sono andato in Chinatown, ho fatto veramente scorta di cibi, dolcetti cinesi. Ma io continuo a farlo, tutti. È quella la cosa bella. Ma sì, ragazzi, si muore una volta sola, forza, su, dire, su. Tanto non penso che, voglio dire, cioè, Santa succederà. Comunque, quindi questo è. Speriamo, insomma, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci metta una pezza in qualche modo. Sì, il CDC come nei film americani. Io non penso al fatto che quelli sono 40 milioni di persone, ragazzi, queste due città bloccate, 40 milioni di persone, cioè l'intera Italia, praticamente, un poco di meno dell'intera Italia bloccate, e secondo me anche l'effetto Resident Evil, secondo me, prima o poi arriverà il momento, perché i cinesi, lo sapete, insomma, non è che guardano troppo in faccia a nessuno, insomma, quindi questa, speriamo di no, perché sarebbe veramente inquietante, però vabbè. Detto vabbè, dai, questo, salutiamo gli amici in chat. Saluto e ringrazio prima di tutto Simone Cusella, che ci è venuto a trovare quando vuole, basta ce lo dice. Grazie a voi, saluto. Mi sono divertito stasera. Bravo. Ciao a grazie. Tutti. Bravo, a presto, bello, un abbraccio e buon ciao, lavoro. Ciao. Salutiamo Walter Sbano, che a sua volta saluta Davide Gatti, Stefano che ci ascolta in differite domani come sempre. Salutiamo Pier G, salutiamo Lobby Frontali, salutiamo Rizzard e tutti quelli che pavidamente non si sono palesati. E soprattutto salutiamo il buon Matteo, che l'ha preso in che ha perso una tornata ma ha vinto una cena. Grande Matteo, ciao. Bene, detto questo, ci vediamo chiaramente la prossima puntata, che ma manco pure alla fine, porca puttana. Ma io ti ho detto metti la corrente a quel cazzo di citofono. Ah, ok, vabbè, infatti Vabbè. Chi è? No, mo scendo giù io, guarda. Ah, aspetta. No, sono le pizze, sono le pizze. Ah, sì, sono le pizze, meno male, era ora. Va bene, detto questo, ci vediamo lunedì prossimo. OGM, oltranzisti, gastricamente maleducati. Alla prossima puntata, sempre qua su Runtime Radio. Ciao! Ciao!